22. Ci trovammo in un'immensa gabbia di metallo. Il pavimento era costituito da una grata, sotto la quale si intravedeva un profondo abisso. Vibrava come se stesse per spaccarsi, e dal fondo venivano vento caldo e rumori di grosse macchine. Alcune scale e ponticelli portavano in diverse direzioni, tutti fatti di quella maglia di ferro sottile. Era come camminare su una ragnatela. Alice si inerpicava con sicurezza su per le scalette, finché arrivò ad una che improvvisamente scendeva. Non era più larga di mezzo metro e dondolava come fosse agitata da una mano invisibile. «Giù di lì non ci vado», disse René. «È elastica, come un ponte tibetano», disse Alice. «Non cadrà mai, fidatevi di me». Passo dopo passo scendemmo nelle viscere della ragnatela metallica, finché ci trovammo di fronte a una porta blindata, su cui spiccava il logo degli sponsor dei reparti segretissimi. Gli ultimi 10 archivi, e dopo di essi lo zero. La porta riconobbe il codice, si aprì e si richiuse alle nostre spalle. Che cosa ci attendeva? Solo un normale hangar semibuio, con piante ornamentali, soprattutto piante grasse, data l'alta temperatura. Poi, uno alla volta, cominciarono ad entrare. Un dragone alato, un drago, un draghetto, un dracunculo, un King Kong, uno scarposauro, uno schizofomedonte, alcuni grifi di Notre Dame, 6 arpie, un ciclope, un sirbone ormiaglio, un'anaconda cingolata, un pitone nocciolato, un kraken con tentacoli di 90 metri, un triceratops, uno stegosauro, 2 siamosauri, 4 gruppi heavy metal, gli Hellraiser, i Hafen Slavsbergius, i Curva Sud, i Crave Curl, un uomo lupo, un uomo cocker, un altro King Kong, il remake, uno Zaramageddon, una ragosta gigante, un'onda anomala, un tartufo presidenziale, un gorilla con prole, 9 tonnellate di gelatina verde, un locustone, 16 scheletri danzanti, un Docopidontan, un ossimoro, un opinion maker, un'orchestra mambo di zombie, una portaerei americana, un minotauro, un minomanzo, un centauro a piedi, un centauro in moto, 19 tra cerberi, ladoni, gellugi, strigi, empuse, carcinocheiri, tinnocefali, aeroconopi e ippomimergi, un refuso, 22 mostri tropici oltre il limite del contenuto concettuale, e cioè 16 mostri per enfasi, 5 mostri per iperbole e un mostriciattolo per lilote. 6 mostri per dislocazione e salto di senso, 3 mostri metaforici e 3 ironici, un mostro di bravura, un vampiro, uno Shelifron Sphiriprex, un bambino prodigio, un Buddy Baol, una coppa gigante di gelato tropicana, un mammut, un teratologo. Ma quando l'orrida Genna, l'infame Masnada, l'infernal Quacervo, l'orrenda Sfilata, la macabra Assemblea, la teria Genga, l'atroce Raduno, lo scena Congerie, la sgorbia Marmaglia, l'orribil Parata, la sconcia Dunata, la malefica Ciurma, la schifosa Cozzaglia, il ributtante Consesso, la satanica Combriccola, la ria Compagnia, la malsana Compagine, il viscido Polipaio, l'ermetico Ensemble, la truce Cooperativa, il ripugnante Corteo, il fetido Gruppazzo, sembrava aver terminato di moltiplicarsi. Si udì un urlo terrificante, che non era né di uomo né di bestia né di diesel. Il rumore di 10.000 diavoli cui viene comunicata la chiusura dell'Averno e relativo licenziamento. E apparve il re dei mostri. Era talmente mostruoso che la sua mostruosità era indescrivibile. Era alto circa, con una bocca enorme dentro la quale, e dalle zanne, gli colava una, mentre i tentacoli mostruosi, e sul dorso portava. Gli artigli delle sue zampe enormi sembravano. Un muco mucilaginoso gli riempiva, e la coda simile a, mentre numerosi aculei, e la ferocia che gli si leggeva negli occhi era, e avanzava lanciando un grido paragonabile, e già si stava accingendo con l'orribile proboscide a, quando. Meraviglioso, dissi io. Il mostro si arrestò, digrignando stupito il. «Mai vista una cosa così bella!» ripetei. Dalle sette bocche veniva ora un rantolo che... direi anzi che è la perfezione fatta mostro. La coda biloba iniziò nervosamente a... Ne avevo sentito parlare, ma non avrei mai pensato che fosse una tale meraviglia. E di colpo si accucciò sulle... E dalla terza bocca in alto a destra sbucò un ometto in camice bianco che discese lungo un tentacolo fino alla coda destra, la percorse evitando con cura gli aculei e ci venne incontro. «Davvero le piace?» disse con una certa commozione nella voce. «Altro che! È sicuramente la mia creazione migliore, permette? Geronimo Balzer, artigiano di effetti speciali, e lui è Albert». Albert sorrise per un totale di 15.000 denti. «Io sono Bedrosian Baol, e questi sono la dottoressa Alice e il mio amico René la Mucca. Conoscevo molte delle sue creazioni, ma non questa. Come mai non lavora più nello spettacolo?» «È una lunga storia», disse Balzer. «Se volete ve la racconto. Albert, portaci tè e pasticcini». «Sì, signore», rispose il mostro. «Preferisce tè Darjeeling, Orange Pico, Jasmine, China Black o Taste of Albert?» «Cos'è il Taste of Albert?» chiesi. «Invece di intingere la bustina nell'acqua calda, ci intingo il dito». «Dovete scusarlo», disse Balzer. «Per quanto ben programmato, resta sempre un mostro». Eccovi la storia. Il racconto dei marziani. Qualche anno fa fui convocato per un progetto segretissimo. Erano tempi in cui il regime era particolarmente corroso dagli scandali e godeva di scarsa considerazione internazionale. Perciò avevamo pensato al progetto alieno, una finta invasione marziana che sarebbe stata respinta dalle nostre forze armate con evidenti vantaggi pubblicitari e politici, e cioè... A. La battaglia contro il comune nemico spaziale avrebbe rinsaldato il morale nazionale e eliminato le tensioni interne. B. La scelta del nostro paese come sede di un'invasione marziana sarebbe stata invidiata dalle altre potenze ben più di un'Olimpiade o di un mondiale di calcio. C. La vittoria sulle truppe aliene avrebbe reso popolare il nostro esercito. Fui quindi incaricato di progettare l'astronave e gli alieni, mentre gli esperti avrebbero preparato gli scenari possibili. A. Invasione del polo da parte di alieni che, dotati di alito al fluorocarburo, respirando avrebbero aumentato a dismisura il buco nell'ozono e loro eliminazione mediante dentifrici avvelenati. B. Invasione spaziale del Gran Ballo del Golf, avvenimento mondano dell'anno, e attacco di alieni erbivori al Green. C. Invasione di alieni virus a forma di zolletta bianca in tutti i caffè del globo e relativa epidemia. Feci il mio lavoro con diligenza. Costruii una bellissima astronave ispirandomi a una medusa, la Physiobula danserina. Costruii poi 49 piccoli marziani color champagne, con testa a patata e occhi da pesce abissale, deambulanti su due gambe e coda lunga, quindi con triplo appoggio, ampia possibilità di movimenti, facile parcheggio. Poi feci il capo marziano, ispirato al quarto libro della Settimana di Bontà di Max Ernst. Ero molto soddisfatto del mio lavoro. Non così i gerarchi. Dissero che quei tuberoidi non erano sufficienti per spaventare la gente. Ci voleva qualcosa di veramente mostruoso. Mi diedero l'ordine di costruire Albert. Distrussero i marziani condannandoli al rogo. Non dimenticherò mai la loro espressione mentre li portavano via. Mi ci sono voluti 3 anni per costruire Albert. I microcircuiti del movimento azionano 6.000 fibre muscolari. Cammina, corre, nuota, corteggia, balla. Rovescia ancora il tè, come vedete, ma è perfezionabile. Ma dopo tanto lavoro e tanti collaudi, all'improvviso mi comunicarono che non serviva più. Gli studiosi di management statale avevano stabilito che A. I marziani erano solo al 18° posto nell'inchiesta sulle paure collettive, molto dietro agli studenti, ai tossici, ai comunisti, agli africani, ai ragni e ai vigili urbani. B. Per quanto Albert fosse orribile, decine di ditte erano già pronte a mettere in vendita il suo pupazzo in gomma piuma e Albert sarebbe diventato oggetto di culto 12 ore dopo essere apparso sulla Terra. C. Era perciò preferibile che i terrestri continuassero ad odiare altri terrestri, con tutti i vantaggi del caso, non ultimo la reciprocità. Così io, Albert, e tutte le mie creature fummo rinchiusi qui sotto, perché nessuno sapesse del vecchio progetto. Ci dissero di fare la guardia, ma qua non arriva nessuno che non sia autorizzato dal regime. In 10 anni l'allarme è scattato 2 volte. Una volta per un topo e oggi per voi. Sto qui, nel laboratorio, e la mia vita scorre, monotona e inutile. Non uscirò mai da qui. Non è mostruoso. Balzer si mise a piangere senza ritegno. Albert lo imitò, zampillando da numerosissime aperture. Improvvisamente l'ometto si scosse e disse: «Ma voi non sarete per caso dei ribelli?» L'intuizione Baol mi fece rispondere: «Ebbene, sì. Quindi siete qua giù per qualche azione malvagia e dannosa al regime, al termine della quale scapperete?» «Se ci riusciamo, sì.» «E se ci riuscite, mi porterete con voi?» «Promesso.» «E cosa vogliamo fare?» «Vogliamo entrare nell'archivio zero.» Balzer sussultò. Albert fuggì, gaudendo come un barboncino.